un incontro che fa parte di una serie, è il terzo ed è il terzo anno di approfondimento sul fumetto che il CRAT organizza. Ci sono davvero delle persone assolutamente illustri in questa giornata, che è il 28 settembre a Villa Paradiso a Bologna, e parliamo di fumetti collettivi. Fumetti collettivi l'abbiamo titolato di testimoni consapevoli, perché pensiamo che sia una tendenza, quella nuova, quella di lavorare insieme come artisti, come sceneggiatori, come disegnatori, ma anche come, diciamo, gruppi di sostegno per realizzare dei racconti a fumetti che hanno a che fare con le problematiche emergenti del nostro quartiere, delle nostre città, del nostro mondo. Quindi noi abbiamo scelto una serie di interlocutori bravissimi che hanno proprio lavorato in questa direzione. Tra i protagonisti? Cominciamo da casa nostra in qualche modo, e cioè abbiamo realizzato anche noi un fumetto che si intitola Volando Basso ed è un progetto che è durato un anno, un workshop dove hanno partecipato ragazzi e ragazzi e disegnatori, sceneggiatori su una problematica di quartiere, ne avevamo già accennato, e siamo riusciti a farlo uscire a fine agosto, quindi lo troverete, questo lavoro appunto collettivo, in vendita in questa giornata, ma anche con delle tavole in mostra. Quindi questo è un progetto di cui noi andiamo molto, diciamo, molto fieri e molto orgogliosi. Abbiamo Giuseppe Ciarallo e Lido Contemori, che invece stanno lavorando ancora e tuttora su storie di altre città. Porteranno con loro il libro Storia di San Gennaro, quindi dedicata a Napoli. Questo è un progetto di libro collettivo perché appunto è stato fatto da almeno 24 disegnatori, ma ricordiamo sempre che oltre ai disegnatori sono anche coloro che devono raccontare le storie. Quindi noi chiederemo loro, a quelli che saranno presenti, chiederemo loro qual è il valore del lavoro in collaborazione e in collettivo, in un mondo, in un momento in cui invece ormai da tanto l'individualismo è quello che poi primeggia e sovrasta. Gianluca Costantini verrà anche lui, è un fumettista molto noto, con il suo progetto di ritratti di giornalisti. Lui collabora con il CPJ, che è il Comitato per la Protezione dei Giornalisti, indaga su tutte le segnalazioni di feriti, detenuti e giornalisti uccisi in Palestina, a Gaza. Sono alloggi più di 130, pensate, giornalisti uccisi perché sono diventati dei target, degli obiettivi, dei bersagli. Costantini perché lavora in collettivo? Perché comunque lavora con la costante collaborazione e con il confronto di associazioni proprio su questi temi che sono così importanti. Con lui parleremo anche di Assange, perché anche Assange, su cui lui ha fatto un ottimo lavoro e su cui è uscito appunto un fumetto, è uscito di galera proprio per la mobilitazione che c'è stata dal basso, quindi anche questo noi lo consideriamo una sorta di lavoro collettivo, nel senso che la mobilitazione dal basso può favorire, come è successo in questo caso, la scarcerazione di qualcuno, in questo caso Assange.